Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con la rassegna stampa periodica dei periodici, dei settimanali, anche dei mensili italiani e non solo italiani che troviamo in edicola in questi giorni. In edicola da ieri, come sapete, c'è il è Intelligence in Lifestyle, la sigla che identifica il mensile del Sole 24 Ore dedicato appunto alle tendenze. È in vendita con il Sole 24 Ore, lo potete acquistare aggiungendo 50 centesimi al prezzo del Sole 24 Ore. Di cosa si occupa il? Per chi non lo conoscesse, è un mensile che raccoglie una serie di articoli, di reportage, di tendenze, di curiosità, insomma parecchie cose da leggere, parecchie cose da approfondire anche in queste giornate, in queste ultime giornate di vacanza per molti, in cui c'è un po' più di tempo per dedicarsi alla lettura. Allora io vi segnalo qualche cosa qua e là dal nostro mensile, poi molto altro naturalmente potete trovarlo in edicola. Ad esempio nelle pagine che sono intitolate Green Report e che sono un appuntamento fisso per i lettori di Il, la Fattoria dei Pesci. La Fattoria dei Pesci è un collage grafico e di numeri dedicato appunto all'utilizzo della pesca dei pesci come alimentazione. Mentre la domanda continua a crescere, avverte infatti le scorte del pescato diminuiscono e i mari si svuotano. Ormai quasi il 50% dei consumi mondiali viene coperto da prodotti allevati. Ma l'acquacoltura è davvero una soluzione sostenibile? Tra i fautori del cambiamento e gli ambientalisti il dibattito è iniziato. Vedremo come proseguirà questo dibattito. Intanto una serie di disegni che sormontano le due pagine con grafici e numeri appunto ci informa che sono diverse le specie a rischio, perché il consumo di pesce pro capite è quasi duplicato negli ultimi 50 anni e questa poi è una stagione in cui tutti amiamo mangiare pesce, mangiarne anche più del solito. Se continuassimo a pescare e a mangiare pesce al ritmo attuale, rischieremmo di svuotare gli oceani. Greenpeace ha compilato un elenco delle specie che sono a rischio. Naturalmente c'è il tonno pinna gialla, che è il sorvegliato speciale più famoso, ma ce ne sono anche altri, ad esempio anche l'anguilla o il merluzzo bianco o il salmone dell'Atlantico, lo stesso pesce spada, vengono citati tra le specie più a rischio. E poi ancora la platessa, la soglia e la razza del tipo razza bavosa sono specie che vengono messe in pericolo dall'aumento della domanda. La compilazione di queste due pagine è stata affidata a Francesco Franchi. Francesco Franchi ci informa tra l'altro che comunque consumare pesce è un modo di tutelare anche l'ambiente, perché infatti con la carne inquini di più, avverte il... Tra i vari parametri per calcolare la propria impronta di CO2 annuale, la dieta è determinante. Con una dieta a base di pesce si ha una impronta, cioè si rilascia anidride carbonica per 4,8 tonnellate in un anno, con una dieta a base di carne questo valore sale da 4,8 a 5,8 tonnellate di anidride carbonica per chi mangia carni rosse tutti i giorni. Questo potete tra l'altro verificarlo sul sito carbonfootprint.com, è il sito da cui è stato tratto questo dato e molti altri ce ne sono. Vi segnalo poi sempre in queste due pagine l'andamento del consumo del pesce d'allevamento. La fa da padrone la Cina. La Cina ha avuto tra il 1970 e il 2006 un incremento fortissimo nell'utilizzo appunto del pesce coltivato, dell'acquacoltura, rispetto al pesce pescato in mare. Altre cose che troviamo su Il, qualcuna forse i lettori del Sole 24 Ore l'hanno già vista nel numero appunto di giovedì, nel quotidiano di giovedì, il costo dei gol. Qui trovate il servizio integrale realizzato da Gianni Dragoni. Gianni Dragoni ha provato a mettere in correlazione il numero dei gol segnati con il costo delle squadre di calcio per il campionato che si avvia proprio oggi. E dice Gianni Dragoni: tirare calci al pallone è un gioco che costa caro. Mandare la palla in rete, se si gioca in Serie A, è carissimo. Soprattutto, avverte Dragoni, per l'Inter. Per ogni gol in campionato spende 2,8 milioni di euro. Seguono in questa classifica il Milan, 2,7 milioni a gol, la Juventus con 1 milione 700 mila euro e poi la Roma, 1 milione 300 mila euro. Il ha compilato la classifica di dividendo il costo di tutto il personale della squadra di Serie A per i gol fatti con i dati sulla stagione 2007-2008. Lo scudetto in quella stagione, ricordiamo, andò all'Inter con 85 punti, i gol segnati furono 69, ma appunto ad un costo molto molto alto. Seconda arrivò la Roma, 82 punti, 72 gol, e la Roma, abbiamo visto, era solo quarta in questa classifica del costo dei gol. Il titolo avverte appunto: gol e addio 2,8 milioni. Questo il servizio di Gianni Dragoni, che trovate sempre con il in edicola con il Sole 24 Ore. C'è poi una storia curiosa invece ripescata nelle pagine curate da Paolo Martini, pagine che si chiamano Cocktail Martini. È la storia di un impiegato modello assolutamente sconosciuto, o almeno per me era tale, ma credo anche per molti degli ascoltatori. Il piccolo misconosciuto cinese che garantì 700 anni di progresso al grandissimo impero d'Oriente. Si chiamava Tsai Lun, viveva nel secondo secolo d.C. e, dice Martini, persino l'enciclopedia libera online Wikipedia lo snobba. Tsai Lun o Kai Lun fu un funzionario nella corte dell'imperatore cinese, è ritenuto, buttano lì anche da Wikipedia, l'inventore della carta nella sua forma moderna, ma in Occidente è praticamente sconosciuto. Se ne è accorto però lo scrittore di fantascienza, uno scrittore di fantascienza tedesco, Andreas Eschbach, nel suo libro del futuro, Libro del futuro si chiama il libro. Il caso Tsai Lun per lui è un clamoroso esempio di quanto l'imprevedibile possa essere motore del progresso. Grazie a questo piccolo impiegato per 700 anni, la Cina ha sviluppato la cultura più progressista del mondo. Il metodo fu sperimentato per la prima volta nell'anno 105 d.C., ed è sostanzialmente lo stesso con cui si fabbrica ancora oggi la carta. Tsai Lun usò la canapa, gli stracci, le reti da pesca, il sughero della corteccia. Gli arabi rubarono questo segreto ai prigionieri cinesi a Samarcanda nell'anno 751 d.C. I cartai europei lo appresero dagli arabi nel XII secolo e i cinesi poi furono sorpassati solo dopo Gutenberg, quindi stiamo parlando del XV secolo. Questa è la curiosità che troviamo nelle pagine di Cocktail Martini su Il. Un'ultima segnalazione da il mensile del Sole 24 Ore, la trago da Luca Salvioli. Luca Salvioli invita a riflettere sui rumori finti. Ci sono in questo numero di Il alcune pagine che sono dedicate al silenzio. Il silenzio è un bene di cui, specialmente in vacanza, tutti andiamo in cerca. Bene, curiosamente, segnala appunto Salvioli, noi siamo sempre più circondati da rumori, tanto che ne abbiamo bisogno anche per compiere gesti, per interagire con macchine, con macchinari che in realtà per di loro non farebbero rumore alcuno. Spiega infatti Salvioli: abbiamo così tanto il rumore che l'abbiamo importato anche sui nostri gadget tecnologici, dai personal computer alle macchine fotografiche digitali. Tutti sappiamo che appunto quando scattiamo una fotografia con il cellulare, con una macchina digitale, sentiamo il rumore dello scatto, così come accadeva con le macchine meccaniche. In realtà questo scatto è un rumore ricostruito, perché di suo la macchina digitale non farebbe rumore alcuno. Riferisce Salvioli: la giornata qualunque del cittadino contemporaneo inizia con la sveglia, generalmente del cellulare, prosegue in macchina, sulla via dell'ufficio, avvolta da rumori di traffico, intervallata dalle segnalazioni acustiche del navigatore. Alla scrivania il personal computer saluta l'arrivo con una musichetta non appena viene acceso. Spesso viene reso però silenzioso per evitare i litigi con i colleghi. A quelli, cioè i litigi con i colleghi, pensa lo squillo imperterrito dei cellulari. E persino i documenti digitali che finiscono nel cestino fanno scratch. Sulla strada di casa c'è la stessa dinamica di 8 ore prima, poi c'è la TV accesa, la console di videogiochi dei figli, la musica, qualunque altro ritrovato tecnologico che ci conduce fino a tarda sera, quando un suono avverte avverte che la giornata è finita. Questo suono spesso è la musichetta del telefonino che viene spento. Sembra un incubo, commenta Salvioli, perché siamo avvolti dal rumore, altrimenti non si capirebbe perché il silenzio sia diventato un valore assoluto del nostro tempo, oltre ogni dubbio, cercato come non mai la sera, in vacanza e nei momenti di relax. Eppure il rapporto tra l'uomo e il rumore a tratti è paradossale. Provate a dire a un appassionato di motori che da domani guiderà solo auto che non fanno rumore e moto che, rispetto a una Harley Davidson, ricordano il canto di un usignolo. Questo andrà naturalmente su tutte le furie. Ma pensate, segnala sempre Salvioli, che l'Unione Europea, prima della diffusione di auto elettriche di massa, ha immaginato soluzioni tecnologiche che ne aumentassero il rumore, e questo per motivi di sicurezza, cioè per poter avvertire i pedoni che dell'arrivo di una macchina e in questo modo evitarne l'arrivo silenzioso che poteva essere pericoloso. Questa riflessione è appunto di Salvioli, condotta sul IL di questo mese, prosegue poi con altri casi che forse non sono a tutti noti. La portiera di una piccola utilitaria può permettersi di fare clunk quanto vuole, ma una berlina che ha qualche ambizione in più deve avere un suono più compatto. Il motore, poi sappiamo, è un ambito a sé, l'espansione dello scarico di una sportiva deve far sentire tutta la potenza dei cavalli all'autista, altrimenti tanto vale. Insomma, il rumore sostanzialmente diventa un elemento di design, e lo stesso vale per telefonini, personal computer, cugini vari. C'è addirittura uno studio di suoni per le varie funzioni, e questo studio viene adattato al target, al pubblico di riferimento. Quello appunto di funzionamento, il rumore connesso al funzionamento, in realtà con il diffondersi del digitale si è progressivamente ridotto. Spiega poi Luca Gammaitoni, che è il direttore di un laboratorio dell'Università di Perugia che studia la fisica del rumore: lo sviluppo tecnologico ha ridotto gran parte dei rumori della prima società industriale, però ha moltiplicato gli oggetti che producono rumore. E che cos'è il rumore? Il rumore è una variazione casuale della pressione dell'aria, ma quando questa è regolare il risultato è un suono. Il rumore è la cosa più naturale che esista, prosegue Gammaitoni, mentre il suono, a parte rarissimi casi, è un'invenzione dell'uomo e parte appunto con la musica. Gammaitoni, per concludere, ci avverte che il nostro stesso corpo è rumorosissimo e persino la replicazione del DNA fa baccano. Il rumore, insomma, può diventare una fucina di idee e di soluzioni per i laboratori di ricerca, dei prossimi 15 anni. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, ci siamo lasciati un attimo fa parlando di rumori, rumori veri, rumori finti, rumori riprodotti che servono a farci riconoscere qualche funzione per oggetti che di loro ne farebbero ormai ben poco di rumore. Allora parliamo di qualche cosa che non farà probabilmente rumore, farà rumore in un altro senso, cioè farà parlare di sé. Un dirigibile solare è una notizia che ho trovato sul Mondo questa settimana. Il titolo già ci porta sempre sullo stesso tema: silenzio. Si vola sul dirigibile solare. Naturalmente il dirigibile a energia solare di per sé si immagina produca meno rumore. Ci avvisa il Mondo: tra pochi giorni esordirà Nefelios, sostenuto da Total e Secventure Incubator. Servirà a scopi industriali e turistici. Leggiamo appunto dal Mondo: volare senza consumare carburante. Un progetto che non è solo per gli oltranzisti dell'ecologia, se anche la Total ha deciso di finanziarlo. Si tratta di Nefelios, il primo dirigibile a energia solare nel mondo, realizzato da 30 studenti di ingegneria ed economia francesi. Aiutati dall'incubator, questi centri che appunto sostengono le imprese che partono da un'idea di business e poi cercano di svilupparsi, un incubator francese, questo incubator ha portato i principali investitori, alcuni sono investitori pubblici e altri sono investitori privati, tra cui appunto Total. Questi studenti hanno progettato e realizzato un velivolo che sarà lungo 22 metri per 5,5 metri di diametro, con una velocità media di 40 km orari. Un dirigibile che il Mondo ne riporta una foto del prototipo, è molto simile ai dirigibili che si potevano vedere anche più di frequente nel secolo scorso. Un dirigibile solare può sembrare un'impresa avveniristica, ma è in realtà un progetto in cui aziende e enti di ricerca francesi credono. anche perché i costi non sono proibitivi. 150.000 euro contro i 100 milioni di dollari che vengono stimati necessari per costruire un aeroplano solare. La prima impresa di Nefelios sarà l'attraversamento della Manica, però in programma c'è già la costruzione di un secondo dirigibile solare, ancora più grande e potente, in grado di attraversare l'Atlantico. Questo dirigibile avrà un'autonomia di 24 ore e poi un altro ancora, già in programma, compirà il giro del mondo con pannelli solari fotovoltaici, pannelli semiflessibili di ultima generazione, che vengono naturalmente alloggiati nella parte superiore della struttura del dirigibile. L'energia ottenuta dai pannelli solari alimenta il motore elettrico situato dietro la cabina di pilotaggio, dotata a sua volta di due eliche bipala. Ecco, poi però il mondo ci spiega anche perché si è sentito il bisogno di costruire un dirigibile solare. E la risposta che ci viene data da uno di questi studenti, appunto, che hanno reso possibile il progetto, non è, come ci saremmo aspettati, la necessità di fare qualche cosa di rispettoso per l'ambiente, ma sono proprio necessità commerciali. Ci sono, spiega Arnaud Vaillant, che è uno degli studenti che ha firmato il progetto, ci sono degli utilizzi industriali che rendono interessante lo sviluppo di un dirigibile solare. Missioni scientifiche che richiedono misurazioni terrestri o su mare, ma anche per la sorveglianza e il monitoraggio, per esempio, di tralicci da parte delle società elettriche, degli incendi da parte della protezione civile. Un'applicazione poi ovvia, naturalmente, è quella della pubblicità. Probabilmente sarà venuto in mente anche a molti di voi l'utilizzo dei dirigibili per sorreggere, appunto, scritte pubblicitarie. Ma il futuro, è sempre Vaillant a parlare, entro 3 anni è per il trasporto delle merci, soprattutto carichi pesanti e voluminosi come turbine delle grandi centrali elettriche, e perché no, può esserci anche uno sviluppo turistico, naturalmente tutto questo sfruttando i vantaggi della minore impatto ambientale proprio del dirigibile solare. E allora, visto che parliamo di volare, di volo, restiamo in qualche modo in tema, riprendendo una curiosa classifica che ho visto su Famiglia Cristiana di questa settimana, gli aeroporti dove si dorme meglio. Naturalmente io vi auguro di non dover mai dormire in un aeroporto, perché di solito questo significa avere perso la coincidenza dell'aereo o essere costretti comunque a fermate non preventivate. Però c'è anche qualcuno che si è preso la briga di vedere in quali aeroporti si può dormire meglio se proprio uno è costretto a farlo. Pare che il miglior aeroporto in cui si può dormire al mondo sia quello di Singapore, poi quello di Seul. Ad Amsterdam si dorme ugualmente bene, al terzo posto di questa speciale classifica, poi viene l'aeroporto di Oslo e infine l'aeroporto di Hong Kong. Famiglia Cristiana ci dà anche notizia degli aeroporti peggiori, cioè di quelli dove si dorme peggio. Al primo posto il Charles de Gaulle di Parigi, forse anche un problema appunto della quantità di traffico che porta alla difficoltà di riposarsi. Poi viene l'aeroporto di Mosca, l'aeroporto JFK di New York, quello di Los Angeles, ugualmente giudicato tra i peggiori posti, tra i peggiori aeroporti dove dormire, e infine, in questa classifica dei 5 peggiori aeroporti dove dormire, quello di Nuova Delhi. E nel La corrispondenza di Antonio San Francesco ci danno anche qualche altra informazione. A Fiumicino, ad esempio, si riferisce che fa freddo e trovare una panchina è impossibile. Questo ha scritto un passeggero che ha collaborato a questa classifica. Al John Fitzgerald Kennedy di New York è il più sporco che abbia mai visto, dice un altro passeggero. Quello di Oslo, invece, è un aeroporto dall'atmosfera molto tranquilla. C'è tanta gente e i negozi sono aperti 24 ore su 24. A raccogliere lamenti ed elogi dei viaggiatori costretti a dormire su una poltroncina in un aeroporto è un sito che si chiama appunto sleepinginairports.net, fondato da un ex agente di viaggi, una signora canadese, Donna McSherry, che ha fondato questo sito nel 1996. Ora ha pensato di stilare appunto questa classifica dei migliori e peggiori aeroporti dove può capitare, tra ritardi e coincidenze perse, di trascorrere una notte, e qui segue appunto questa classifica. Devo dire che Fiumicino si colloca, ohimè, molto in basso, anche se non negli ultimi 5, in questa particolare classifica stilata appunto da questo sito canadese. Continuiamo a parlare di viaggi con Famiglia Cristiana, perché nelle stesse pagine in cui ci si informa appunto di questa classifica degli aeroporti dove è scomodo o comodo dormire, veniamo anche informati della scomparsa dell'ufficio oggetti smarriti sui treni. Scrive infatti Stefano Stimammiglio: avete dimenticato in treno il portafoglio, volete chiamare l'ufficio oggetti smarriti della stazione? Non c'è più, non lì almeno. Con un laconico messaggio, il sito di Trenitalia informa i clienti che a partire dal 13 giugno scorso, il 13 giugno 2009, il servizio oggetti smarriti è temporaneamente sospeso. Va in soffitta così uno dei piccoli miti che hanno fatto l'Italia e che un po' forse ci rassicuravano. Perché va in soffitta? Perché era troppo costoso. Gli oggetti reclamati, spiega a Famiglia Cristiana Gianfranco Battisti, responsabile della divisione passeggeri, non arrivavano al 20% di quelli consegnati ai nostri uffici, che peraltro non superavano in media i 3.300 pezzi all'anno. Non tutto però è perduto, ma solo smarrito, appunto, come si chiamava l'ufficio. A fine corsa, spiega sempre Battisti, il capotreno è tenuto a lasciare nell'ufficio di servizio i beni ritrovati, da consegnare l'indomani all'ufficio oggetti smarriti del comune. Quindi presso il comune del luogo di smarrimento si possono ora reclamare i beni dispersi. Poi esiste anche un numero a pagamento sempre disponibile sul sito di Trenitalia, però si riferisce sempre a Stimammiglio su Famiglia Cristiana, si tratta in realtà di un generico servizio assistenza ai clienti che non garantisce in ogni caso il risultato. Interessante notare che qualche associazione dei pendolari si è organizzata in conto proprio, così ha fatto l'associazione dei pendolari Liguri, ha aperto un sito e fa da mediatore tra chi perde e chi trova oggetti sulla linea Milano-Genova, e così appunto la chiusura di Stimammiglio, l'arte di arrangiarsi è proprio l'unica cosa che gli italiani non perdono mai. Usciamo per questi pochi minuti che ci restano dai confini italiani, andiamo in Danimarca, perché ho scoperto leggendo l'Economist che non siamo l'unico paese a preoccuparsi della presenza di cani aggressivi anche nei confronti dell'uomo, ma che la questione agita molto anche la Danimarca. C'è stata una sorta di alzata di scudi perché sono molto aumentati gli incidenti che hanno visto coinvolti appunto cani aggressivi. Più o meno si calcola che in Danimarca ci sia al momento un incidente legato appunto all'aggressività di un cane ogni 15 giorni. Naturalmente so che questo tipo di segnalazione potrebbe attirarmi le critiche degli animalisti, ma mi limito a riferirvi quello che appunto riporta l'Economist. I cani, non la recessione o la disoccupazione, sono il più grande problema che in questo momento sta preoccupando la Danimarca in questa estate. Così scrive appunto la corrispondenza da Copenaghen dell'Economist. Il Partito Liberale, ma lo stesso Primo Ministro, hanno promesso una nuova legge per mettere al bando le razze di cani più aggressive. Non vogliamo una società, ha detto il Primo Ministro, dove non si possa camminare con un bambino senza rischiare di essere attaccati da uno di questi cani. Riferisce sempre l'Economist che c'è stata anche un deputato danese, una signora danese, che ha proposto di togliere di mezzo, di sopprimere appunto tutti i cani di razza, non di razza, diciamo. E questa proposta però, fortunatamente, riferisce sempre l'Economist, non è stata accolta granché bene, anzi è decisamente caduta nel dimenticatoio, perché poi il fatto di questo incrocio di razze dovrebbe aver portato a un aumento dell'aggressività non viene spiegato in questo articolo, ma evidentemente per chi lo proponeva era molto chiaro. E allora un'ultimissima cosa ancora dall'Economist: sappiate che i codici a barre, quelli che vediamo sugli oggetti che compriamo ai supermercati, invaderanno sempre di più la nostra vita. In Giappone li usano per consentirvi di fotografare un codice a barre e ottenere così gli orari dei treni o gli orari delle corriere. Spesso si possono integrare questi codici a barre con internet e così magari, non so, trovare il codice a barre su una rivista e dal codice a barre risalire al sito di questa azienda fotografando appunto questo codice, risalire al sito dell'azienda e ottenere ulteriori informazioni su questo prodotto. È una delle applicazioni a cui si sta lavorando più massicciamente, potrebbe anche cambiare la modalità appunto di vedere la pubblicità su carta alla quale siamo abituati. Con questa ultima segnalazione io vi saluto, ringrazio Giorgio Matè per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.